Libro dei Giubilei 8 Sem E nel 29° Giubileo, nel primo settennio, all'inizio di esso, Arpachshad prese in moglie Rasuia, figlia di Susan, figlia di Elam e Costei, nel terzo anno di questo settennio, gli generò un figlio ed egli lo chiamò Kenan. E il figlio crebbe. Il padre gli insegnò la scrittura ed andò a cercargli un luogo ove occupare, per lui, un paese. E trovò uno scritto che gli antichi avevano inciso sulla pietra, ne lesse il contenuto, lo trascrisse e trovò che in esso vi era la dottrina dei vigilanti. E come essi vedessero gli auspici del sole, della luna, delle stelle, e in tutte le costellazioni. Scrisse e non parlò di esso a Noè affinché questi non si adirasse con lui a causa di esso. E nel primo anno del secondo settennio del 30° Giubileo, prese in moglie Melca, figlia di Abadei, figlio di Iafete Costei, nel quarto anno, gli generò un figlio ed egli lo chiamò Shalah perché diceva, quanto ad esser stato mandato, sono stato inviato. Nel quarto anno nacque Shalah, crebbe e nel primo anno del quinto settennio del 30° Giubileo si prese in moglie Muac, figlia di Chese, fratello di suo padre. E Costei, nel quinto anno, gli generò un figlio ed egli lo chiamò Eber. E, costui, nel terzo anno del settimo settennio del 32° Giubileo prese in moglie Ajurad, figlia di Nebrod la quale, nel sesto anno, gli generò un figlio ed egli lo chiamò Peleg perché, nel giorno in cui nacque, i figli di Noè cominciarono a spartirsi la terra e, perciò, gli mise il nome di Peleg. Divisione. E si spartirono con malizia la terra fra di loro e lo dissero a Noè. E al principio del 33° Giubileo, nel primo anno del primo settennio, divisero la terra in tre porzioni, per Sem, per Cam e Jafet. Ognuno secondo il proprio diritto ereditario, mentre era presente l'angelo, uno di noi che fummo inviati presso di loro. E Noè chiamò i suoi figli. Essi, con i loro figli, si avvicinarono a lui, ed egli divise la terra che i tre figli gli presero a sorte. Stesero le loro mani e presero dal grembo di Noè, loro padre, lo scritto, indicante la sorte. E, nello scritto del sorteggio di Sem, uscì la parte centrale della terra che egli prendeva in proprietà ereditaria per i figli e discendenti, in eterno. La sua porzione dal centro del monte Rafa, dall'uscita delle acque del fiume Tina, andava attraverso questo fiume verso occidente. E andava fino ad avvicinarsi all'abisso delle acque dove, da esso, esce questo fiume e versa le proprie acque nel lago Miot e si getta, questo fiume, nel grande mare. Tutte le terre verso sud a Jafet e tutte quelle verso nord a Sem andavano fino ad avvicinarsi a Cara so che è nel grembo della lingua di terra che guarda verso nord. E la sua porzione andava verso il gran mare e procedeva dritta fino ad avvicinarsi verso occidente della lingua che guardava verso nord. Essa, a causa di questo mare, si chiamava lingua del mare di Egitto. Ed inclinava di là verso nord in direzione della bocca del gran mare ai margini delle acque ed andava verso occidente, ad Arafah. E procedeva fino ad avvicinarsi alle acque del fiume Gione, verso nord delle acque del Gion, alle rive di detto fiume. E procedeva verso oriente fino ad avvicinarsi al giardino di Eden, verso il pieno nord e dall'oriente di tutta la terra di Eden, dall'oriente pieno, ripiegava ad oriente e procedeva fin quando si avvicinava ad oriente del monte Rafa e scendeva verso i lati dell'uscita delle acque del fiume Tina. Questa porzione sortì, in sorte, assieme ai suoi figli perché la possedessero, lui e i propri figli, per l'eternità. E Noè fu lieto che questa porzione fosse uscita in sorte a Sem e ai suoi figli, e si ricordò delle parole che disse, di sua bocca, nella profezia, dato che aveva detto, «Sia benedetto il Signore, Dio di Sem, e abiti nella sua casa». E dato che sapeva che il giardino di Eden era santo dei santi, e dimora del Signore, e che il monte Sinai, centro del deserto, e il monte Sion, centro dell'ombelico della terra, tutti e tre, l'uno di fronte all'altro, erano stati creati per la santità. E benedì il Dio degli dii che aveva posto, nella sua bocca, la parola del Signore. E seppe che la porzione di benedizione ed il dono di Dio era pervenuto a Sem e alla sua stirpe, per l'eternità, tutta la terra di Eden, e tutta la terra del Mar Eritreo, e tutta la terra di Oriente, e l'India, e in Eritrea, e nei suoi monti, e tutta la terra di Bazor, e tutta quella del Libano e le isole di Caffatur e tutto il monte di Saner, e Amana, e il monte di Assur del sud, e tutta la terra di Elam e di Assur, e di Babel e di Susan, e di Madai, e tutti i monti di Ararad, e tutta la terra al di là del mare che è al di là del monte di Assur, verso sud. Era terra benedetta e vasta e tutto quel che era in essa era assai bello. E Acam uscì la seconda parte, verso la regione al di là del Ghion, verso nord, a destra del giardino, e andava verso nord, per tutte le montagne di fuoco. E andava verso occidente, verso il lago di Atil. E procedeva a occidente fino ad avvicinarsi al lago Mauk, nel cui interno scendono tutti i fiumi che si perdono. E veniva a sud, ai bordi di Gadir e veniva ai bordi delle acque del lago, nella regione al di là del gran mare fino quando si avvicinava al fiume Ghion, e questo fiume procede fino ad avvicinarsi a destra del giardino di Eden. Questa è la terra che insorte a Cam, in porzione che egli prendeva in perpetuo, per esse, e per i suoi figli. E a Yafet uscì la terza quota, al di là del fiume Tina, verso il sud della uscita delle loro acque, e andava verso sud-est, attraverso tutta la regione di Leg, e tutto il suo oriente. E procedeva lungo il sud. E andava, per le montagne di Kilt, verso sud, e verso il lago Mauk, e arrivava a oriente di Gadir, fin verso il braccio dell'acqua del lago. E procedeva fino ad avvicinarsi in direzione dell'occidente di Fara, entrava verso Efreg, e procedeva verso oriente, in direzione delle acque del fiume Meat. E andava verso il braccio del fiume Tina, verso sud-est, fin quando si avvicinava alle rive delle sue acque, verso il monte Rafa, e girava a sud. Questa è la terra che uscì a Yafet e ai suoi discendenti in quota ereditaria che egli prendeva, per esse, e per i suoi discendenti, in eterno. Cinque grandi isole e grande terra a sud. Ma era fredda, mentre quella di Cam era torrida. La terra di Sem, invece, non era torrida fredda, perché era temperata col freddo e col caldo. Nove. Suddivisione. E Cam fece la divisione fra i suoi figli e la prima parte uscì a Cush, quella verso oriente, l'occidente a Put e a Canaan l'occidente, verso l'ovest del lago. E anche Sem fece la divisione fra i suoi figli e la prima parte uscì a Elam e ai suoi figli, tutta la terra in India, a oriente del fiume Tigri, fin quando esso si avvicina ad oriente, nella regione di Eritrea, le acque di Dedan. Tutti i monti di Mebriela, tutta la terra di Susan e tutta quella che è nella regione di Fernac fino al mar Eritreo e al fiume Tina. E ad Assur la seconda parte, tutta la terra di Assur, di Ninive e Sinaor, fin presso l'India, e saliva nel fiume. E ad Arpakshad uscì la terza parte, tutta la terra della regione dei Caldei, verso oriente dell'Eufrate, che è vicino al mare di Eritrea. E tutte le acque del deserto fin presso la lingua di mare che guarda verso l'Egitto, e tutta la terra del Libano, di Saner, e Amana, fin presso l'Eufrate. E ad Aram uscì la quarta parte, tutta la terra di Mesopotamia, fra il Tigri e l'Eufrate verso sud dei Caldei, fin presso il monte di Assur, e la terra di Arara. E a Lud uscì la quinta parte, il monte di Assur, e tutto il suo territorio circostante, fino a che si avvicinava verso l'oriente del territorio di Assur, suo fratello. E anche Jafet divise, fra i figli, le terre della sua eredità, e la prima parte uscì a Gomer, verso est, da sud, fino al fiume Tina. E a sud, tutte le regioni interne meridionali, fino a che si avvicinavano al lago Med, uscirono a Magog. E Amadai uscì la sorte di prendere da occidente dei suoi due fratelli fino alle isole, e alle loro estremità. E a Yavan uscì la quarta parte, tutte le isole, e le isole verso la regione di Lud. E a Tubal uscì la quinta parte, fra la lingua che si avvicina ai paraggi della porzione di Lud fino alla seconda lingua. Nella regione al di là della seconda lingua, nella terza. E a Meshek uscì la sesta parte, tutta la regione al di là della terza lingua, fin presso l'oriente di Gadir. E a Tiras uscì la settima parte, quattro grandi isole in mezzo al mare. Quelle che sono vicine alla porzione di Cam, e le isole di Kamaturi ai figli di Arpakshad. Uscì in sorte, a lui, come proprietà ereditaria. E, in tal modo, i figli di Noè spartirono ai loro figli in presenza del loro padre. E Noè li fece giurare, maledicendo chiunque prendesse la porzione che non gli era uscita in sorte. E tutti dissero, sia, per loro e i loro figli, nelle loro generazioni fino al giorno del giudizio nel quale il Signore e Dio li condannerà, con la spada e col fuoco, per tutto il male della impurità del loro peccato per cui essi riempirono la terra di colpe, impurità, fornicazione e peccati. Dieci. Nel terzo settennio di questo giubileo i demoni impuri presero a far errare i figli di Noè, a farli impazzire e a farli perdere. E i figli si recarono da Noè, loro padre. E gli parlarono dei demoni che li traevano nell'errore e accecavano ed uccidevano i figli dei figli. E Noè pregò al cospetto del Signore, suo Dio, e disse: Dio delle anime che sono in tutte le carni, tu che mi hai fatto grazia ed hai salvato dalle acque del diluvio, me ed i miei figli e che non hai fatto in modo che io morissi come hai fatto per i figli della perdizione. Poiché grande è la tua benevolenza verso di me e grande è stata la tua misericordia verso la mia anima, si innalzi la tua benevolenza sui figli dei tuoi figli e gli spiriti malvagi, sì che non li estirpino dalla terra, non abbiano potere su di loro. E tu hai benedetto me ed i miei figli perché crescessimo, aumentassimo e riempissimo la terra. E tu conosci in qual modo agirono, ai miei tempi, i tuoi vigilanti, padri di queste anime. E questi spiriti maligni che stanno in vita, chiudili e tienili nel luogo della condanna infernale e, poiché sono malvagi e sono stati creati per corrompere, che essi, o mio Dio, non contaminino i figli del tuo servo. E che essi non abbiano potere sull'anima dei vivi. Poiché solo tu conosci la loro potenza, che essi non abbiano, sui figli dei giusti, da oggi nei secoli, alcun potere. E il nostro Dio ci disse di legarli tutti. E Mastema, messaggero degli spiriti, venne e disse: Signore Creatore, lascia qualcuno di loro innanzi a me, ed essi ascoltino la mia parola e facciano tutto quel che io dirò loro perché se di loro non mi resta. Io non posso applicare la potenza della mia volontà nei figli dell'uomo, poiché essi sono per corrompere, disperdere e far errare prima del giudizio, dato che grande è la cattiveria dei figli degli uomini. E il Signore, disse, rimarrà un decimo innanzi a lui e le nove parti scenderanno nel luogo della dannazione. E ad uno di noi disse che insegnassimo a noi ogni loro medicamento poiché sapeva che non era nella rettitudine che essi procedevano né per la giustizia che essi si battevano. E noi agimmo secondo il suo ordine. Legammo nel luogo della dannazione tutti i malvagi che erano bravi ed un decimo di essi li lasciammo affinché fossero in potere di Satana, sulla terra. E, affinché Noè curasse con le piante della terra, noi gli dicemmo, insieme con l'inganno, il rimedio di ogni malattia. E noi, così come glielo avevamo insegnato, scrisse ogni specie di rimedio in un libro e tutti gli spiriti cattivi al seguito dei figli di Noè furono rinchiusi. E Noè dette quel che aveva scritto al suo figlio maggiore, a Sem, poiché lo amava assai più di tutti i suoi figli. E si addormentò coi suoi padri e fu seppellito sul monte Lubar nella terra dello Ararat. Compì, nella sua vita, 950 anni, 19 giubilei, 2 settenni e 5 anni che egli, a causa della sua santità nella quale era perfetto, visse sulla terra, eccettuato Enoch, più a lungo di tutti i figli degli uomini. Infatti il compito di Enoch era, naturalmente, di testimonianza alle generazioni del mondo sì che dicesse, nel giorno del giudizio, tutte le azioni delle generazioni. E nel 33esimo giubileo, nel primo anno di questo secondo settennio, Peleg prese in moglie Lomena, figlia di Sinar e Costei. Nel quarto anno di questo settennio, gli generò un figlio che egli chiamò Reu perché disse: «Ecco, i figli degli uomini, per il bravo proposito di costruire una città e una torre nella terra di Sinar, sono diventati malvagi. Perché erano emigrati dalla terra dell'Ararat verso oriente, nel Senar, e perché, ai suoi tempi, avevano costruito una città ed una torre dicendo: saliamo, a mezzo di essa, nel cielo. E presero a costruire nel quarto settennio. Col fuoco ed ebbero mattoni come pietre e il fango col quale intonacavano era asfalto che usciva dal mare e dagli abissi delle acque della terra di Sinar. E la costruirono per 40 anni e, per 3 anni, stettero a costruir mattoni ognuno della fronte di 3, dello interno di 10 e dell'altezza di 3. Ed essa si innalzò per 5.433 cubiti, 2 spanne e 15 meraf. E ci disse il Signore, nostro Dio, ecco, erano un sol popolo. Hanno cominciato a lavorare ed ora nessuno di loro la finirà. Venite. Scendiamo e confondiamo le loro lingue, l'uno non comprenderà la parola dell'altro e siano dispersi fra i paesi e i popoli e non vi sia più, così, fra di loro, un solo modo di intendersi, fino al giorno del giudizio. E il Signore discese, e noi con lui, per vedere la città e la torre che i figli degli uomini avevano costruito. Ed egli confuse tutte le parole dei loro linguaggi e l'uno non intese più le parole dell'altro e interruppero, allora, la costruzione della città e della torre. E, perciò, tutta la terra di Senaor fu chiamata Babele poiché colà il Signore disgregò tutti i linguaggi dei figli degli uomini e di là furono dispersi in tutti i loro paesi, ognuno secondo il proprio linguaggio e la propria nazione. E il Signore mandò un gran vento sulla torre e la abbatté a terra ed ecco, là, quella torre, fra la terra di Assur e di Babilonia, nella terra di Sinar e si chiama Decat. Nel primo anno, al suo inizio, del quarto settennio del 34° giubileo, furono dispersi dalla terra di Sinaor. E Cam e i suoi figli si recarono nel territorio preso per lui e che aveva avuto, come sua parte, nella terra del sud. E Canaan vide che la terra del Libano, fino al fiume d'Egitto, era assai bella e, perciò, non andò nella terra della sua eredità, verso ovest, e si fermò nella terra del Libano, da est e da ovest o terra del Giordano, e sul braccio del mare. E il padre Cam, e i suoi fratelli Cush e Misraim gli dissero, ti sei fermato nella terra che non è tua e che non ci è uscita in sorte. Non far così. Se fai così, tu e i tuoi figli cadrete in terra, sotto le lance, e sarete maledetti nella discordia. Poiché nella discordia vi siete fermati, colà, e nella discordia cadranno i tuoi figli e tu sarai sradicato in eterno. Non stare nella sede di Sem poiché essa è uscita in sorte assieme ai suoi figli. Sarai il più maledetto, e più di tutti i figli di Noè, con la maledizione che stabilimmo con giuramento al cospetto del giudice santo e di Noè, nostro padre. Egli non li ascoltò ed è stato, con i suoi figli fino ad oggi nella terra del Libano, da Emat fino alle porte di Egitto e, perciò, Questa terra è stata chiamata Canaan. Jafet e i suoi figli andarono verso il mare e soggiornarono nella loro porzione e Madai vide la terra del mare. Gli piacque e la chiese a Elam, a Asor ed a Arpakshad, fratello di sua moglie ed ha soggiornato, fino ad oggi, nella terra di Medekin, vicina a suo cognato. E la sede sua e dei suoi figli, Madakin, la chiamò con il nome di Madai, loro padre. Undici. Corruzione. E nel primo anno del terzo settennio del 35° giubileo Reu prese in moglie Ora, figlia di Ur, figlia del figlio di Chesed. Costegli generò figli ed egli lo chiamò Serug nel settimo anno di quel settennio dello stesso giubileo. E i figli di Noè cominciarono a combattere, a far prigionieri e a uccidere ognuno il proprio fratello, a spargere il sangue degli uomini sulla terra, a mangiare il sangue e a costruir paesi fortificati, muri e torri e a innalzarsi, un uomo, sul popolo e a nominare, per la prima volta, governo e a portar guerra. Popolo contro popolo, popoli contro popoli e paese contro paese, e il tutto per far male e impossessarsi di armi e per insegnare ai loro figli la guerra. E cominciarono a catturar paesi e a vendere schiavi e schiave. E Ur, figlio di Chesed, costruiera, dei Caldei e la chiamò col nome proprio e col nome di suo padre. E si fece delle statue di metallo. E coloro che si erano fatte statue di metallo si prostravano agli idoli, e cominciarono a far sculture, e statue impure, e gli spiriti maligni li aiutavano, e li traevano in inganno a che facessero peccati e cose impure. E il principe Mastema, nel far tutto ciò, era potente e mandava, per mezzo degli spiriti, quelli che erano stati consegnati nelle sue mani, a far ogni delitto, peccato ogni azione colpevole, a corrompere, a distruggere e a sparger sangue sulla terra. E, perciò, il nome di Seru fu chiamato Seru perché tutti si erano girati a commettere ogni specie di peccato. E crebbe e stette in Ur dei Caldei vicino al padre della madre di sua moglie ed adorava gli idoli. E nel primo anno del quinto settennio del 36° giubileo prese in moglie Melca, figlia di Cheber, figlia del fratello di suo padre. E costegli generò Nabor nel primo anno di questo settennio e crebbe e dimorò in Ur dei Caldei, e il padre gli insegnò la dottrina dei Caldei e a indovinare e trarre auspici dagli astri del cielo. E, nel primo anno del sesto settennio del 37° giubileo prese in moglie Iask, figlia di Nesteg dei Caldei. E costei, nell'anno del settimo settennio di questo, gli generò Tara. E il principe Mastema mandò corvi e uccelli a mangiare. Per la devastazione della terra. Le sementi che si seminavano nella terra, e a rapinare i figli degli uomini dei frutti del loro lavoro affinché, prima che arassero, i corvi raccogliessero i semi dalla faccia della terra. E perciò suo padre lo chiamò Tara, perché i corvi e gli uccelli li avevano ridotti in povertà ed avevano loro mangiato i semi. E gli anni cominciarono a divenir sterili al cospetto degli uccelli mangiavano, dagli alberi, tutti i frutti delle piante. Fu con gran forza se, in quei tempi, Si pot salvarne pochi. E nel primo anno del secondo settennio del 39° giubileo Tara prese in moglie Idna, figlia di Abramo e figlia della sorella di suo padre. E, nel settimo anno di questo settennio, costei gli generò un figlio ed egli lo chiamò Abramo, col nome del padre della di lui madre, poiché costui era morto prima che la figlia concepisse il figlio. Abramo. E il fanciullo cominciò a conoscere gli errori della terra, e, in qual modo tutti erravano al seguito degli idoli e della impurità. Il padre gli insegnò la scrittura, egli era un fanciullo di 2 settenni e si separò dal padre per non adorare, insieme con lui, gli idoli. E prese a pregare il Creatore di tutto affinché lo salvasse dagli errori dei figli degli uomini e la sua parte non cadesse nell'errare al seguito della impurità e della malvagità. E venne il tempo della semina per mettere i semi nella terra e tutti uscirono insieme per difendere la propria semenza dai corvi. E uscì anche Abramo con loro e il fanciullo era dell'età di 14 anni. E una nuvola di corvi venne a mangiare i semi e Abramo correva verso di loro prima che essi si poggiassero sulla terra e gridava contro di loro prima che essi si poggiassero, per mangiare i semi, sulla terra e diceva, «Non scendete! Tornate nel luogo donde siete venuti!» Ed essi se ne tornarono. E, in quel giorno, le nuvole di corvi ritornarono, da 70 vie, su tutti i campi dove stava Abramo, di tutti i corvi, nessuno vi si fermò e nessuno rimase colà. E lo videro tutti quelli che stavano, con lui, in tutti i campi. Egli gridava, tutti i corvi se ne tornarono e il suo nome si fece grande in tutto il territorio dei Caldei. E, in questo stesso anno, tutti quelli che seminarono, andarono da lui ed egli andò con loro fin quando finì il tempo della semina ed essi seminarono i loro terreni, ammassarono, inquellano, il grano. Mangiarono e furono sazi. E, nel primo anno del quinto settennio, insegnò l'arte del legno a quelli che facevano gli attrezzi dei buoi. E fecero un attrezzo sulla terra, in opposizione al manico dell'aratro, sì che vi mettevano sopra la semenza ed essa scendeva, dall'interno, nel serbatoio dei semi e si nascondeva nel terreno. E così essi non ebbero più paura dei corvi. E fecero in tal modo su tutti i manici degli aratri, posero i manici degli aratri sul terreno, seminarono e fecero, per tutta la terra, tutto come loro aveva comandato Abramo. E non ebbero più paura al cospetto degli uccelli. XII. E nel settimo anno del settimo settennio, Abramo disse a Tara, suo padre, padre. Ed egli gli disse, eccomi qua, figlio mio. Quale aiuto e convenienza abbiamo da quegli idoli che tu adori e ai quali ti prostri dato che essi non hanno spirito alcuno? Sono muti e costituiscono un errore del cuore. Non adorarli. Adorate il Dio del cielo che manda la pioggia e la rugiada sulla terra e che, con la sua parola, ha creato ogni cosa e ogni vita, procede da Lui. Perché adorate quelli nei quali non vi è né anima né cuore, dato che sono opera delle mani, E perché ve li portate sulle spalle? Non vi è, per voi, da parte loro, alcun aiuto all'infuori della grande ignominia per coloro che li costruiscono e dell'errore del cuore per coloro che li adorano. Non adorateli. E Tara disse, lo so anche io, figlio mio. Ma come faccio con questo popolo che mi ha ordinato di servire innanzi a loro? Se dicessi loro il giusto, essi mi ucciderebbero, perché la loro anima va appresso a loro per adorarli e magnificarli. Taci, figlio mio, affinché non ti uccidano. Egli disse queste cose ai suoi due fratelli, i quali si adirarono con lui, ed egli se ne stette zitto. E nel settimo anno del secondo settennio del quarantesimo giubileo Abramo si prese una donna di nome Sara, figlia del di lui padre, e costegli divenne moglie. E Aran, suo fratello, prese moglie nell'anno del terzo settennio, e la moglie, nel settimo anno dello stesso settennio, gli generò un figlio ed egli lo chiamò Lot. E anche Naor, suo fratello, prese moglie. E, nell'anno della vita di Abramo, quel quarto settennio, nel quarto anno, Abramo si alzò di notte e bruciò il tempio degli idoli e tutto quel che vi era dentro, senza che alcuno lo sapesse. E sorse di notte e voleva salvare, da mezzo al fuoco, i propri dei. Aran corse a salvarli, il fuoco bruciò su di lui ed egli bruciò nel fuoco e morì in Ur dei Caldei innanzi a Tara, suo padre, e lo seppellirono in Ur. Tara e i suoi figli uscirono da Ur dei Caldei per venire nella terra di Libano e in quella di Canaan e Abramo, insieme col padre Tara, si fermò a Arran per due settenni. E nel quinto anno del sesto settennio Abramo si alzò di notte, al principio del settimo mese, e stette ad osservare le stelle, dalla sera all'alba, per vedere quali sarebbero i fatti dell'anno in riferimento alle piogge, e stava ad osservare da solo. E nel suo animo venne una voce che diceva, tutti i segni delle stelle, del sole e della luna, tutto è nelle mani del Signore. Perché io sto ad investigare? Egli, se vuole fa piovere di sera e di mattina, e se vuole, fa scendere. Tutto è nelle sue mani. E, nella stessa notte, pregò e disse, Dio mio, Dio eccelso. Tu solo sei il mio Dio. Tu hai creato tutto e tutto quel che esiste è stato opera delle tue mani. Io ho scelto te e la tua divina maestà. Salvami dalle mani degli spiriti malvagi che dominano nel pensiero della mente dell'uomo, e che essi non mi facciano errare da dietro a te, o mio Dio. Prepara me e i miei figli all'eternità, e fa sì che noi non erriamo da oggi, nei secoli. E io dico se debba ritornare a Ur dei Caldei, i quali desiderano che io ritorni presso di loro, o se debba stare qui, in questo luogo. La via retta, avanti a te, rendila prospera. Che essa agisca per mano del tuo servo ed io non procederò, allora, nell'errore del mio cuore, o mio Dio. Finì di parlare e di pregare ed ecco che fu inviata presso di lui, a mio mezzo, la parola del Signore che diceva, vieni dalla tua terra, dal tuo parentado e dalla casa di tuo padre nella terra che io ti mostrerò. Io ti porrò in una terra che è grande, in un popolo grande e numeroso. Io ti benedirò, renderò grande il tuo nome e tu sarai benedetto sulla terra e, per te, saranno benedetti tutti i popoli della terra. Quelli che ti benediranno, io li benedirò e quelli che ti malediranno, li maledirò. Io sarò il tuo Dio, per te, per i tuoi figli, per i figli dei tuoi figli e per tutta la tua discendenza e dopo di te. Non temere. Da ora, e fino a tutte le generazioni della terra, io sarò il tuo Dio. E mi disse il Signore Iddio, sciogli la sua bocca e le sue orecchie ed egli ascolti e parli nella lingua che tu rivelerai perché è ferma sulla bocca di tutti i figli degli uomini fin da quando era bambino. E io sciolsi la sua bocca, le sue labbra e le sue orecchie e cominciai a parlare con lui in ebraico, nella lingua della creazione. Ed egli prese gli scritti dei suoi padri, ed erano scritti in ebraico, li trascrisse, fin da allora, ha iniziato a studiarli ed io gli spiego quel che gli è difficile ed egli li ha studiati durante i 6 mesi di pioggia. Ed il 7° anno del 6° settennio parlò con suo padre e gli annunziò che se ne andava da Arran per recarsi a vedere Canaan e che sarebbe ritornato presso di lui. E il padre, Tara, gli disse, vai in pace. Il Dio dei mondi diriga il tuo cammino e il Signore con te ti protegga da tutti i mali, ti dia. Al cospetto di tutti quelli che ti osservano? La grazia, la misericordia e la benevolenza e che nessuno dei figli degli uomini abbia, su di te, il potere di farti del male. Va in pace. E, se vedi che la terra è bella ai tuoi occhi e a starci dentro, vieni, prendimi con te presso te. E prendi con te Lot, figlio di tuo fratello Aran, ed egli ti sia figlio e il Signore sia con te. Lascia tuo fratello Naor presso di me fino a che ritornerai in pace e noi andremo, tutti insieme, con te. 13. E Abramo prese Sara, sua moglie, e Lot, figlio di suo fratello Aran e andò via da Aran nella terra di Canaan, venne nella terra di Esur, procedette fino a Sichem e passò la notte alla quercia alta. E vide la terra ed ecco che essa era assai bella dall'ingresso di Hamat fino al monte alto. Ed il Signore gli disse, io ti do, per te e i tuoi figli, questa terra. Ed egli costruì colà un altare e vi innalzò sopra l'olocausto al Signore che gli era apparso. E partì di colà per Monte Betel, che è verso il mare e per Ai, verso oriente piantò colà la sua tenda. Osservò ed ecco che la terra era assai bella, vasta e generosa. Vi germogliava tutto, viti, fico, melograno, quercia, frassino terebinto, ulivo, cedro del Libano, cipresso e tutti gli alberi di selva. E vi era acqua sulle montagne. E benedì il Signore che lo aveva fatto uscire da Ur dei Caldei e lo aveva fatto arrivare su questo monte. E nel 1° anno del 7° settennio, all'inizio del 1° mese, costruì un altare su questo monte e lo chiamò, col nome del Signore, Tu, mio Dio, Dio eterno, e offrì, sull'altare, l'olocausto al Signore affinché stesse con lui e non lo abbandonasse per tutto il tempo di sua vita. E partì di là ed andò verso il sud e arrivò fino a Hebron, che allora era stata costruita, e stette colà. Nella terra del sud, 2 anni fin quando arrivò Lot e vi fu carestia sulla terra. E Abramo andò, nel 3° anno del settennio, in Egitto e vi dimorò 5 anni prima che gli fosse rapita la moglie. E Tanei d'Egitto fu costruita allora, nella 7ª stagione delle piogge, dopo la costruzione di Hebron. E quando il faraone rapì Sara, moglie di Abramo, il Signore flagellò il faraone e tutta la sua casa con grandi flagelli a causa di Sara, moglie di Abramo. Abramo era onorato di molte ricchezze, di pecore, buoi, asini, cavalli, cammelli, servi, serve, argento ed oro in gran quantità ed anche Lot, figlio di suo fratello, aveva ricchezze. E il faraone fece ritornare Sara, moglie di Abramo, e lo fece partire dall'Egitto. Ed egli andò nel luogo dove prima era stata piantata la sua tenda, nel luogo dell'altare, Ai, ad oriente di Betel. Vi si reò e benedisse il Signore suo Dio che lo aveva fatto tornare in pace. E nel 3° anno del 1° settennio del 41° giubileo ritornò in questo luogo ed offrì, su di esso, l'olocausto e chiamò col nome del Signore e disse, Tu, o Signore, Dio eccelso, Dio mio nei secoli. E nel 4° anno del settennio Lot si separò da lui e si fermò a Sodoma, i cui uomini erano grandi peccatori ed egli, poiché il figlio di suo fratello si era separato da lui ed egli non aveva figli, si addolorò nello animo suo. In quell'anno, quando Lot fu fatto prigioniero, il Signore parlò ad Abramo, dopo che Lot si era separato da lui nel 4° anno del settennio, e gli disse, Alza i tuoi occhi dal luogo dove stai. Starai là, a nord, a sud, ad ovest e ad est poiché tutta la terra che vedi io la darò a te e ai tuoi figli, per sempre, e farò la tua discendenza come la sabbia del mare. Se l'uomo può contare la sabbia del mare, anche la tua discendenza sarà contata. Sorgi. Percorri là in lungo e in largo ed osserva tutto, poiché io la do alla tua stirpe. E Abramo andò a Hebron e soggiorò colà. E in quell'anno venne Chedorlaomer, re di Elam, Anorafel, re di Shinear, Arioch, re di Elazar e Tideal, re dei pagani e uccisero il re di Gomorra. E il re di Sodoma fuggì e molti caddero, per le ferite, a Sedemau, nella terra del sale, e presero prigionieri Sodoma, Adma, Seboim e Lot, figli del fratello di Abramo, e tutte le sue ricchezze, e andò fino a Dan. E uno che si era salvato venne da Abramo e gli disse che il figlio di suo fratello era stato fatto prigioniero. E lo schiavo offrì, in favore di Abramo e della sua discendenza, le prime decime al Signore ed il Signore stabilì una legge eterna. Che le dessero ai sacerdoti, a coloro che servivano innanzi a lui, e che essi le prendessero per l'eternità. E non vi è, per questa legge, limite di tempo poiché, per le generazioni, è norma eterna che si dia, al Signore, la decima delle semenze, dell'olio, del vino, delle vacche e delle pecore. Ed egli dette, con gioia, ai suoi sacerdoti, da mangiare e da bere al suo cospetto. E giunse presso di lui il re di Sodoma, si prostrò avanti a lui e disse: Signor nostro Abramo, dacci l'anima di quelli che hai salvato dal pericolo, e il bottino sia tuo. E Abramo disse: Alzo le mie mani al Dio eccelso che prenderò nulla di quello che è tuo, dal filo fino al laccio dei sandali, affinché tu non dica di avermi arricchito. Se non quello che mangiano solo giovani e la porzione degli uomini che sono venuti con me, e cioè, Aner, Eshcol e Mamre. Costoro prenderanno la loro parte. Un e dopo di ciò, nel quarto anno di questo settennio, all'inizio del terzo mese, vi fu in sogno, ad Abramo, la parola del Signore che diceva: Non temere, Abramo, dato che io sono il tuo protettore e il tuo premio sarà grandissimo. Ed egli disse: Signor mio, che mi darai? Io me ne andrò senza figli. Il figlio di Masek, il figlio della mia serva, quell'Eliezer di Damasco, egli erediterà da me. A me tu non hai dato figli. Egli disse: Non sarà costui il tuo erede, ma colui che uscirà dal tuo seno. Questo erediterà da te. Lo fece uscire fuori e gli disse: Guarda nel cielo, vedi se puoi contare le stelle del cielo. Egli guardò il cielo, vide le stelle e gli disse: Così sia la tua discendenza. Egli credette nel Signore e ciò gli fu ascritto a giustizia. Egli disse: Io sono il Signore Dio tuo che ti ha fatto uscire da Ur dei Caldei per darti la terra di Canaan da occupare per sempre, e sarò il tuo Dio per te e per le tue generazioni dopo di te. Ed egli disse: Signore, Signore, come saprò ci erediterò? Egli disse: Prenditi un vitello di 3 anni, una capra di 3 anni, una pecora di 3 anni, una tortora ed una colomba. Ed egli prese tutte queste cose alla metà del mese e stava al querceto di Mamrei che è vicino a Ebron e costruì, colà, l'altare. E sacrificò tutti questi, ne versò il sangue sull'altare, li divise a metà e pose una di fronte all'altra, ma gli uccelli non li tagliò. E gli uccelli scendevano sui pezzi sparsi delle bestie, ed egli li allontanava e non permetteva che li toccassero. E al calar del sole, un terrore e una gran tenebra paurosa cadde su Abramo. Egli fu detto: Sappilo. Sappi che la tua stirpe sarà esule in terra di stranieri, e che, per 400 anni, la domineranno e la faranno soffrire. Io condannerò i popoli cui essa sarà stata soggetta e, dopo di ciò, essa uscirà di colà con molte ricchezze e tu andrai in pace presso i tuoi padri e sarai seppellito in bella vecchiaia. E nella quarta generazione ritorneranno qui poiché i peccati degli Amorrei, fino ad oggi, non sono finiti. Ed egli si destò dal suo sonno, si alzò, il sole tramontò. Vi fu una gran fiamma ed ecco che una fornace emetteva fumo e una fiamma di fuoco passò fra i pezzi di animali sparsi. E in quel giorno il Signore strinse il patto con Abramo dicendo: Io darò alla tua discendenza questa terra dal fiume di Egitto fino al gran fiume Eufrate, ai Cheniti, ai Chenizziti, ai Cadamoniti, ai Ferezziti, ai Refaiti, ai Facoriti, agli Viti, agli Amorrei, ai Cananei, ai Girgasciti. Abramo passò ed offrì i pezzi sparsi degli animali e gli uccelli e i loro sacrifici e le loro bevande e il fuoco li mangiò. E in quel giorno stringemmo con Abramo un patto simile a quello che stringemmo in questo mese con Noè, ed Abramo rinnovò, per esse stesso, e in eterno, la festa e la legge. Abramo si rallegrò ed annunziò tutte queste cose a Sarai, sua moglie, ed ebbe fede che egli avrebbe avuto figli. Ma quella non generava. E Sarai dette un consiglio a suo marito Abramo e gli disse: «Entra da Agar, la mia serva egiziana. Può essere che avrai discendenza da lei». Abramo ascoltò le parole di Sarai, sua moglie, e lei disse: «Fa tu». Ella prese Agar, la sua serva egiziana, e la dette ad Abramo, suo marito, perché gli fosse donna. Egli entrò presso di lei ed ella rimase incinta, e generò un figlio ed egli lo chiamò Ismaele, nel quinto anno di questo settennio, ed era l'86° anno della vita di Abramo.